La storia e la memoria di Dino Pesole. 20 interviste a personaggi di rilievo della seconda metà del Novecento, 20 interviste realizzate da una intellettuale, giornalista, scrittrice di primissimo piano nel travagliato panorama della sinistra italiana. 20 interviste che ora ci vengono riproposte in tutta la loro attualità dall'autrice Rossana Rossanda, dirigente del Partito Comunista fino al 1969, quando venne radiata dal partito per le sue posizioni in quanto esponente critica della sinistra del PC, fondatrice della rivista, poi quotidiano Il Manifesto. Le interviste sono raccolte nel volume Quando si pensava in grande, tracce di un secolo, colloqui con 20 testimoni del Novecento, appena pubblicato da Einaudi. Dal filosofo Gheorghi Lukács, che Rossana Rossanda incontrò a Budapest nel 1965, al colloquio con Louis Aragon del dicembre del 1982, dall'intervista a Jean-Paul Sartre del 1969, a quelle con Louis Althusser del 1978 e poi, avvicinandoci ai nostri giorni, con Pietro Ingrao del 1990, Giuseppe De Rita del 93 e infine Sergio Cofferati e Massimo D'Alema. Non è peraltro l'unico libro che riguarda Rossana Rossanda, perché proprio in questi giorni ne è stato pubblicato un altro con Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri dal titolo Il film del secolo, pubblicato da Bompiani, una sorta di racconto per immagini degli ultimi 100 anni, l'epoca del cinema. Ma ora soffermiamoci sulle interviste e sul contesto che ci viene così descritto dalla autrice. I 20 colloqui confermano che la seconda metà del Novecento è stata, almeno per noi occidentali, meno sanguinosa della prima, ma non meno traumatica per le idee con le quali l'abbiamo attraversata. I lembi di comunismo al tramonto, il lento declino dell'egemonia degli Stati Uniti, quello dei primi decenni del dopoguerra, quelli dello sviluppo legati ai diritti sociali, la lunga e velenosa agonia del colonialismo, il trionfo della proprietà con tecnologie e scienze in velocità esponenziale. In quegli anni mutava lo scenario del mondo come era apparso dopo il secondo conflitto mondiale e cambiava in modo imprevisto, se nessuno, né singoli individui, né le più grandi cancellerie sembrò averlo previsto. Per esempio il crollo dell'Unione Sovietica o l'irrompere dell'islamismo e quel che ne sarebbe conseguito negli equilibri interni e internazionali. Vorrei soffermarmi in particolare con l'autrice su un punto trattato nel volume che riguarda il contrapporsi di due distinte ideologie in campo economico. Da un lato il risolto liberismo, dall'altro il dibattito sul ruolo dello Stato. Interessante questo passaggio contenuto nell'introduzione del libro. Che cosa avevano in comune, pur arrivando a scelte diverse, Karl Marx e John Maynard Keynes per essere così aspramente combattute? Il riconoscimento di una divergenza fondamentale di interessi tra capitale e lavoro. Marx ne derivava la necessità di una rivoluzione e Lenin l'aveva realizzata, unitamente ad altre motivazioni nel corso della Prima Guerra Mondiale. Mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale, e certo anche in conseguenza della forza dell'URSS, Keynes proponeva un compromesso fra le due parti sociali con una mediazione assegnata allo Stato. E allora diamo il benvenuto a Rossana Rossanda. Buonasera e benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Volevo parlare del suo libro e in particolare della scelta di aver dedicato 20 interviste a personaggi di spicco della seconda metà del Novecento. Ecco, come è nata l'idea e la scelta soprattutto dei personaggi che lei ha deciso di raccogliere in questo volume? Ma guardi, io queste interviste si svolgono nel corso di 40 anni quasi. Però ecco, io ho visto molta gente anche più importante, perché un quotidiano, lei sa come me, che si corre verso sinistra. Ho scelto quelli che mi erano più simpatici. Certo, è un criterio in ogni caso rilevante, perché fa parte dei rapporti personali. Sì, fa parte dei rapporti personali e quelli che poi mi incuriosivano sotto il profilo di quello che è successo dopo, di quello che loro, che mi parevano le persone più acute di quel momento, avevano intuito o non avevano intuito. La verità è che nessuno ha intuito molte cose di allora, persone, sia loro che persone, diciamo così, più importanti ancora. Nessuno negli anni 70, parlo dei 70, non dei 30, aveva immaginato il crollo del sistema dell'est. Non ce n'è uno che ne accenna. Nessuno aveva immaginato che il sistema comunista sarebbe crollato in modo così tremendo. E del resto anche, persino le grandi cancellerie, compresi gli Stati Uniti, non avevano avuto questa percezione. Ma del resto i servizi segreti famosi, quando mandavano via lo Shah dalla Persia, non avevano nessuna idea che ci fosse in Iran una così forte spinta religiosa. Certo. Lo dicono anche. Cioè non c'è una grande, come dire, nella seconda metà del secolo, i parametri sui quali ognuno misurava un po' le possibilità e l'avvenire non hanno funzionato più di fronte al reale, ecco. È molto interessante, Rossana Rossanda, quello che lei scrive, in particolare sulla contrapposizione, chiamiamola così, o addirittura sui punti che uniscono Marx e Keynes. E si chiede che cosa avevano in comune, pur arrivando a scelte diverse, Marx e Keynes, per essere così aspramente combattuti. È il dilemma della seconda metà del secolo scorso tra teorie liberiste, da un lato, e chi sostiene e sosteneva, continua a sostenere, che comunque lo Stato debba avere un ruolo fondamentale nella scelta delle decisioni di politica economica e non solo. È importante questo passaggio. Ma questo per me è la cosa fondamentale che mi pare di aver capito, e cioè che subito dopo gli anni 60 appare intollerabile, diciamo, ai grandi poteri nazionali e internazionali l'ipotesi keynesiana, e quindi è da questo che abbattono. Guardi, se lei vede più da vicino, c'è, non so, la socialdemocrazia tedesca che cambia posizione già nel corso degli anni 50, e poi negli anni 60 cresce la crisi dei partiti comunisti, in parte la crisi del sindacato, e si modifica anche l'atteggiamento della classe dirigente. Io mi penso soltanto a una figura come quella di Agnelli, dell'avvocato, l'avvocato che diceva, si poneva il problema di un accordo con le maestranze, col sindacato, e che poi non si è posto più nessuno. Questa è stata una grossa svolta del secolo. Cioè non solo l'attacco all'ipotesi comunista, che è più comprensibile, ma l'attacco a un'ipotesi, quella che chiamo keynesiana, ma che anche di Minsky, e cioè il riconoscimento che c'è una divergenza profonda di interessi, diciamo, fra capitale e lavoro. C'è stata la rivoluzione russa e i casi sono due: o vai a cercare di distruggerla oppure fai un compromesso. E beh, Keynes ha fatto un compromesso molto interessante, e questo adesso, per esempio, in Europa non c'è nessun governo che lo cerca più. Qual è la sua valutazione, anche alla luce della sua esperienza di intellettuale, di giornalista, che ha vissuto in prima persona anche tutto il percorso della politica italiana negli ultimi 30 anni, qual è la sua valutazione dell'attuale momento politico che sta vivendo il nostro paese? Ma mi sembra un momento di vero e proprio sbriciolamento della sinistra. Ora in Italia, per lei, accede fame. Beh, io avevo 20 anni, uscito dalla guerra, e quindi la mia esperienza politica nasce, insomma, dopo la resistenza e intorno a un tentativo di mutamento del paese, che è un paese molto arretrato, e anche della sua classe dirigente. Io sono comunista, ma non è vero che allora noi ci ponevamo il problema di una rivoluzione e della presa del palazzo d'inverno, eh? Era un'ipotesi appunto di modifica dei rapporti di forza a favore del lavoro dipendente, ma questa era stata la natura di quasi tutta l'Europa, anche del modello avardiano, in maniera più mista, diciamo, di quello che si è chiamato poi il modello renano, dell'Ebur, quello di Beran iniziale, era l'ipotesi europea dominante. E poi a metà degli anni 70 cambia proprio e si entra in una fase come l'attuale, che è una fase in qualche misura di assoluta, diciamo, vittoria di un capitale che non tratta con nessuno. Grazie ancora per essere stata con noi, buona serata.